giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trasporto pubblico, ritocchi a biglietti e abbonamenti che aumentano in media del 4%. Regionale e comunale 2023 si voterà il 2 e il 3 aprile. Nel centro-sinistra c'è chi punta un accordo con i 5 Stelle. Nicoli, capogruppo in consiglio, lascia Forza Italia. Accordo all'azienda sanitaria Giuliana Esontina, parte un servizio sperimentale per coadiuvare di giorno i medici di famiglia nelle urgenze che non richiedano accesso al pronto soccorso. Virus di stagione batte Covid, ne colpisce di più l'influenza. Intervista con un immunologo. Dispositivi medici, le aziende del settore biomedicale respingono le richieste del governo di restituire parte dei profitti. C'è il rischio di fallimenti. Un carico d'acciaio dal Sudafrica sulla nave più grande mai approdata al porto di Monfalcone. La Croazia in Schengen, i sindacati celebrano l'ingresso con una cerimonia all'ex confine con la Slovenia. Sport basket, Apu annichilita da Cantù in Coppa Italia. Calcio, l'Udinese batte 3-1 la Cremonese nell'ultima amichevole prima del rientro in campionato. Venerdì 30 dicembre, sono le 7:19 minuti, 30 secondi. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Uno sguardo al tempo in apertura di GR. Abbiamo cielo da coperto variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature che sono state registrate alle 6. A Trieste 10 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Udine 8, a Pordenone 7 gradi. Nell'area montana a Tolmezzo e a Tarvisio 5 e 5 decimi. A Sappada 1,5 gradi sotto zero, sul Piancavallo 4 gradi positivi, a Forni di Sopra 2,5, in quota sul Lussari 0 gradi, sullo Zoncolan meno 1, a Grado e a Lignano 9. E siamo alle previsioni, tempo umido con cielo coperto e foschia. Sulla costa e sulle zone orientali si avranno ancora deboli piogge che saranno più continue e anche moderate nella zona Trieste e sul Carso, dove potrà esserci anche nebbia. Diverse precipitazioni anche sulle prealpi Giulie, mentre sulla fascia alpina e verso il Cadore sarà possibile tempo migliore, con cielo in genere nuvoloso. Data delle prossime elezioni, con la conferma del primo settimana di aprile e nuove tariffe del trasporto pubblico locale. Sono i temi principali di cui si è occupata la Giunta regionale nell'ultima riunione dell'anno. I particolari nel servizio. Mancano poco più di 90 giorni alla prossima tornata elettorale del Friuli Venezia Giulia, perché le prossime elezioni regionali sono in calendario domenica 2 aprile e lunedì 3. La medesima scadenza varrà anche per le votazioni amministrative, che in regione nel 2023 coinvolgono 19 comuni, tra loro Udine e Sacile, che avendo più di 15.000 abitanti avrebbero ballottaggio il 16 aprile. Nell'ultima seduta di giunta regionale dell'anno, l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha presentato le date nell'apposita generalità, evidenziando il termine del 1 febbraio prossimo per la delibera di ufficialità, data l'ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci di comuni con più di 3.000 abitanti. I primi cittadini che intendono candidarsi dovranno dimettersi entro il 29 gennaio. Lo statuto speciale della regione prevede l'elezione di un consigliere ogni 25.000 abitanti. Saranno quindi 46 gli eletti al 13° Consiglio regionale, a cui si aggiungeranno il presidente eletto e il secondo candidato più votato, a fronte della popolazione di 1.194.647 persone rilevata dall'Istat a dicembre 2022. Fissato poi al 4% l'aggiornamento delle tariffe del trasporto pubblico locale nel 2023, passerà quindi a 1,40 € il biglietto urbano di corsa semplice rispetto all'attuale 1,35 €, mentre l'abbonamento mensile ferroviario Udine-Trieste costerà 108,40 € dagli attuali 104,25 €. Confermato lo sconto del 50% per gli abbonamenti scolastici del prossimo anno degli under 27 e lo stesso varrà da febbraio in via sperimentale per la tessera annuale degli over 65. Invariate le tariffe per i servizi transfrontalieri ferroviari, con l'obiettivo di integrazione tariffaria di tutti i servizi di trasporto della regione entro il 2024. Infine, il supplemento bici per i servizi marittimi costerà 25 € per 50 corse, prevista entro il 2030 la sostituzione di almeno metà delle vetture diesel con mezzi green, a fronte di un investimento che sfiora i 250 milioni di euro. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Dunque poco più di 90 giorni al voto che rinnoverà il Consiglio regionale e 19 comuni, tra i quali Udine e Sacile. Le forze politiche stringono i tempi per eventuali accordi. Delle ultime ore la richiesta di un incontro a 5 Stelle e PD da parte di Alleanza Verdi, Sinistra Italiana e Open FVG. L'obiettivo è una coalizione che riproponga quello che viene definito il virtuoso modello lombardo come fronte alternativo al centrodestra. La scelta di votare a inizio aprile segna una forte accelerazione, soprattutto tra le opposizioni, che non hanno né un candidato presidente né coalizioni definite. Il Partito Democratico ha avviato un dialogo con diverse sigle e tiene le porte aperte a Movimento 5 Stelle e Terzo Polo. Salvatore Spitaleri del PD. Il Partito Democratico sta costruendo una coalizione che vuole la più ampia e aperta possibile. L'obiettivo è riportare la nostra regione con tutti i suoi territori ha una prospettiva di futuro che tenga conto in particolar modo delle giovani generazioni. Alleanza Sinistra, Verdi e Open spingono per l'ingresso dei pentastellati in coalizione, cosa che escluderebbe di fatto il Terzo Polo, che non vuole allearsi con il Movimento. Isabella De Monte, Azione. Come Terzo Polo stiamo facendo delle valutazioni interne, anche perché, come noto, da poco esiste una federazione tra Azione e Italia Viva. Decideremo prima possibile e naturalmente terremo conto anche delle considerazioni che hanno fatto altre forze politiche in merito ad eventuali alleanze. Nel centrodestra ci sono più punti fermi, a partire dalla ricandidatura del presidente Massimiliano Fedriga, che avrà una sua lista personale. Annunciata la presenza di Autonomia Responsabile, la formazione di Renzo Tondo. Offriremo l'esperienza civica di Autonomia Responsabile, il partito che abbiamo fondato 10 anni fa e che è attualmente federato con Noi con l'Italia, di Maurizio Lupi, alle prossime elezioni regionali. Lo abbiamo concordato con il presidente Fedriga, offriremo la nostra realtà civica, il nostro buonsenso, la nostra esperienza, il nostro impegno. Essendo in corsa le passate regionali, la sua lista ha il privilegio di non dover raccogliere le 4.750 firme previste. Attese le candidature di diversi candidati sindaci uscenti, un paio di primi cittadini potrebbero essere anche nella lista di Fratelli d'Italia, che sulla base del risultato potrebbe chiedere posizioni importanti in giunta. Walter Rizzetto, Fratelli d'Italia. Siamo quasi pronti con la composizione delle liste che penso presenteremo non oltre fine di gennaio del prossimo anno ed evidentemente Fratelli d'Italia, prima di chiedere o di pretendere qualcosa, guarderà con molta attenzione l'esito del voto e saremo conseguenti a quello che fondamentalmente saranno gli esiti della prossima tornata elettorale in regione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Intanto Forza Italia perde una pedina in consiglio regionale. Il capogruppo Giuseppe Nicoli si è dimesso dalla carica e ha lasciato il partito. Sarà capogruppo in una nuova formazione politica, Polo Liberale, di cui faranno parte altri due consiglieri regionali oggi nel gruppo misto, Zalucar e Zanon. Siamo alla sanità. Il 1 gennaio diventerà operativo nell'ambito dell'azienda sanitaria Giuliana Esontina un servizio integrativo sperimentale di assistenza primaria che si prefigge, si ricava da una nota di Assugi, di garantire i livelli essenziali di assistenza e supportare i professionisti responsabili della presa in carico del paziente in presenza di condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità. Si tratta in sostanza di un servizio che sostituirà le unità speciali di continuità assistenziale, medici di guardia per urgenze diurne che non possono essere affrontate dai medici di famiglia e non abbiano bisogno di accesso al pronto soccorso. L'accordo sul SISAP è stato siglato tra Assugi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate. Intanto tra influenze, Covid e slalom, tra i virus, difficile sfuggire ai contagi che hanno fortemente caratterizzato queste ultime settimane. Ma cosa dobbiamo aspettarci per le prossime? Ne abbiamo parlato con Alberto Tomasini, immunologo dell'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste. Dopo aver tolto le limitazioni anti-Covid, le mascherine e i distanziamenti, quest'anno a fare il guastafeste c'è anche l'influenza. E il nostro sistema immunitario è meno allenato del solito. C'è una certa interferenza tra virus, per cui quando io comincio già la risposta immunitaria verso un virus, difficilmente un secondo attecchisce contemporaneamente. Il coronavirus è ormai una minoranza rispetto a tutti gli altri virus, ma è comunque diventato più contagioso e allo stesso tempo meno capace di fare danni. Questo succede perché la popolazione è ormai in gran parte immunizzata e, come dimostra l'esempio della Cina, dove la popolazione è poco vaccinata e il virus ha circolato poco a causa della tolleranza zero, Di fronte ad una popolazione suscettibile, l'Omicron non è molto dissimile dal virus originario, ma se si contrae più volte il Covid si sta peggio o si sopporta meglio la nuova infezione? Come per tante infezioni virali, le volte successive sono sempre più blande perché il nostro sistema immunitario si è allenato, si allena e sconfigge sempre meglio il virus. Questo avviene nella quasi totalità della popolazione, ma come già sapevamo per l'influenza, oggi abbiamo visto anche per il Covid, ci sono dei soggetti che per motivi individuali, intrinseci, che non sappiamo ancora decifrare fino in fondo, possono sviluppare queste infezioni più volte con la stessa gravità o addirittura più gravi, e sono soggetti di cui dovremmo prenderci cura. Per Capodanno nessuno utilizzerà le mascherine, ma cosa dice l'immunologo? Dobbiamo ricominciare a vivere normalmente, ormai di questo passaggio pandemia-endemia si è parlato tanto, io credo che ci siano tutti gli elementi per ricominciare a vivere normalmente con giudizio. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. I dati della pandemia di coronavirus, l'ultimo bollettino della regione, ha evidenziato poco più di 1.400 casi, frutto di circa 8.700 tamponi eseguiti in due giorni. Il tasso di positività è vicino al 16,5%, mentre l'incidenza è di 250 casi per 100.000 abitanti in una settimana. Negli ospedali scende a 8, con un calo di 4 unità, il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre sono 233, 15 in meno rispetto all'ultimo rilevamento, i ricoverati positivi negli altri reparti. Negli ultimi due giorni sono stati registrati 14 decessi. Sempre a proposito di Covid, fanno discutere gli operatori le disposizioni per i controlli sui viaggiatori provenienti dalla Cina, con i tamponi solo agli arrivi dei voli diretti. Dice Marco Consalvo, amministratore delegato di Trieste Airport: attendiamo l'applicazione del decreto del Ministero della Salute in modo che ci sia chiarezza sul fatto se occorra controllare anche i passeggeri dalla Cina transitati da hub europei, e auspichiamo che le disposizioni siano chiarite a livello nazionale e non ci sia difformità di comportamento da scalo a scalo, da regione a regione, precisa Consalvo. Sull'argomento c'è stato un primo incontro tra i vertici dell'aeroporto e le autorità sanitarie della regione. Il governo ha richiesto alle aziende del settore biomedicale di restituire una parte dei profitti ottenuti negli anni scorsi, una misura che però potrebbe far fallire le imprese più piccole della filiera e mettere a rischio gli approvvigionamenti. Nel servizio ascolteremo la voce di Sergio Maddalena, imprenditore udinese del settore medicale. Oltre 1.200 aziende biomedicali, fornitrici di ospedali e strutture sanitarie, fra grandi multinazionali e piccole e medie imprese, che entro il 31 gennaio prossimo devono pagare alla Regione Friuli Venezia Giulia poco meno di 128 milioni di euro. Il conto più alto sfiora i 10 milioni di euro, ma sono 27 le aziende del settore chiamate a versare importi milionari, alle quali si aggiungono le altre, per le quali la richiesta è di decine o centinaia di migliaia di euro. Quale testimone di una delle centinaia di aziende a livello regionale distributrici di dispositivi medici, travolte da questa assurda e iniqua legge chiamata payback, desidero informare quali saranno le conseguenze di questa norma che richiede a noi aziende distributrici di ripianare il 50% dello sforamento al tetto di spesa sanitaria regionale, oltretutto in maniera retroattiva, richiedendo ripiani dall'anno 2015 al 2018. Le conseguenze certe saranno il fallimento di gran parte di noi aziende fornitrici, con immediate ripercussioni sulla distribuzione dei dispositivi medici stessi, indispensabili all'assistenza sanitaria pubblica e quindi alla salute dei cittadini. Gli ospedali saranno al collasso in brevissimo tempo, non potendo garantire appunto la fornitura di questi prodotti. Nel 2021 il Friuli Venezia Giulia avrebbe dovuto spendere 110 milioni di euro e ne ha spesi invece 212, il 91% in più. Diversi i ricorsi al TAR del Lazio, che dovrebbe pronunciarsi il prossimo 17 gennaio. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Giustizia: sono state aumentate le piante organiche dei tribunali nelle sedi delle corti d'appello per far fronte alle esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero della Giustizia ha fatto sapere che il decreto del 22 dicembre prevede un incremento di 52 unità nel ruolo dei magistrati, e richiamandosi alla relazione di ottobre sui fabbisogni degli uffici giudiziari, anche la Corte d'Appello di Trieste avrà un incremento con 4 giudici in più in organico. Si tratta di uno dei tribunali con il maggior aumento, insieme a Milano, Napoli, Roma, Torino, Bologna e Venezia. Un nuovo segnale dell'incremento dei traffici a Monfalcone, in porto ha attraccato la nave più grande di sempre. 90.085 tonnellate di stazza lorda, 289 metri di lunghezza per 45 di larghezza. La Navios Bufix della compagnia greca Navios Maritime Holdings è la più grande nave mai giunta a Monfalcone, ma oltre alle dimensioni stabilisce un primato anche nella quantità di carico per singola nave, 20.000 tonnellate di polveri ferrose per sinterizzazione, processo che contempera alta resa siderurgica e sostenibilità. Il carico giunto dal Sudafrica è destinato alle fonderie austriache Westalpine Wire. L'attracco della nave è reso possibile dalle recenti opere di manutenzione dei fondali che ora si collocano a 11,70 m di profondità. Ma questo nuovo record di Monfalcone è anche un segnale della rimodulazione dei traffici commerciali marittimi conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina. Una rimodulazione che ora vede India, Cina, Indonesia, Brasile e Argentina come fornitori metallurgici prevalenti. Vittorio Torbianelli, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale Adriatico Orientale. Porti internazionali come Trieste e Monfalcone subiscono la storia e gli eventi della geopolitica. In questo caso molti prodotti siderurgici che una volta venivano dal Mar Nero su navi piccole oggi arrivano invece su navi molto più grandi. Monfalcone è capace di giocare questa partita. Solo nel settore siderurgico rispetto all'altro anno c'è stato un aumento del 74%. E per rispondere concretamente alle nuove sfide del traffico commerciale, il porto di Monfalcone sta innalzando anche gli standard di sicurezza per i lavoratori. Sentiamo ancora il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale Adriatico Orientale, Vittorio Torbianelli. Come autorità portuale noi abbiamo sostenuto un percorso di sviluppo in condivisione con i sindacati e le altre componenti, con i protocolli d'intesa che faranno sì che due responsabili dei lavoratori per la sicurezza di sito saranno presenti attivi su Monfalcone, uno pagato da noi, uno pagato dalle imprese, per venire incontro alle crescenti esigenze di un traffico che si fa sempre più intenso. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. I sindacati italiani, sloveni e croati si ritrovano oggi alle 11.30 sull'ex confine sloveno-croato di Castelvenere per celebrare l'ingresso della Croazia nello spazio Schengen. L'apertura dei confini, in un'area geografica da sempre percepita dagli abitanti come unica e indistinta, è di per sé un fatto di grande rilevanza. In più verranno ricordati i vantaggi per i lavoratori frontalieri. Ne abbiamo parlato con il presidente del Consiglio sindacale interregionale italo-croato-alto-adriatico, Michele Berti. Noi oggi festeggiamo quello che a nostro avviso è un evento storico. L'ultima volta che tra quelle che sono oggi l'attuale Italia, Slovenia e Croazia ci si poteva muovere liberamente senza doversi identificare a una frontiera è successo, credo che sia stato prima della Prima Guerra Mondiale. Quindi questo già da sé basta dare la dimensione del fatto storico che è l'ingresso della Croazia nell'area Schengen. Al di là di tutti gli aspetti che riguardano l'economia dei tre paesi che si affacciano sull'alto mare Adriatico, noi vogliamo mettere l'accento sull'aspetto del lavoro. Sappiamo che esiste un lavoro frontaliero storico tra questi tre paesi e il lavoro frontaliero ha bisogno di atti come questo, cioè atti che vadano nella direzione di riconoscere un mercato del lavoro unico dove si possa facilmente muoversi e si possa avere dei rapporti di lavoro regolari, cosa che purtroppo ancora troppo spesso non succede. Ma il fatto di far entrare la Croazia in Schengen è un qualcosa che va in questa direzione. Quindi ci si può spostare, ma ancora manca un'uniformità. Quello che succederà dal 1° gennaio è un fatto, se vogliamo, più simbolico che pratico, perché semplicemente i lavoratori non dovranno più esibire una carta d'identità alla frontiera, anche se sappiamo che in determinati mesi, soprattutto quelli estivi, questo significa anche poter raggiungere il posto di lavoro con notevole ritardo, con tempi di attesa molto lunghi rispetto a quello che sarebbe un normale traffico. Ciò detto, si vive anche di simboli nella vita e noi l'Europa in cui crediamo e l'Unione Europea in cui si fanno gesti che consentono alle persone di semplificare la propria vita. La cronaca, ancora un grave infortunio sulle piste da sci. Sullo Zoncolan, un ragazzo di 23 anni è stato soccorso ieri pomeriggio dopo essere caduto rovinosamente mentre scendeva con lo snowboard. Ha riportato un trauma cranico per il quale ha dovuto essere recuperato con l'elicottero e ricoverato all'ospedale di Udine. Oltre 120 violazioni al codice della strada e 11 patenti ritirate sono il bilancio di una serie di controlli mirati che si sono svolti tra martedì e mercoledì nell'intera provincia di Pordenone. A disporli era stato il questore di Pordenone su impulso del prefetto Lione. Le verifiche hanno riguardato in particolare l'uso corretto dei cellulari e delle cuffie, le cinture di sicurezza e il contrasto del fenomeno della guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche. Impegnati una quarantina di pattuglie e oltre 80 operatori tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. I veicoli controllati sono stati poco meno di 600. Una condanna a 6 mesi di libertà controllata con la revoca di patente e passaporto, oltre all'obbligo di smaltire correttamente i rifiuti sequestrati e la confisca definitiva di 2 autocarri. È la pena inflitta al titolare di un'impresa di Trieste che aveva abbandonato rifiuti e rili in un'area carsica adiacente a Via di Peco tra Borgo San Sergio e Cattinara. La vicenda era cominciata con il ritrovamento di numerosi sacchi di plastica contenenti cartongesso, materiali plastici e piastrelle rotte, oltre a una vasca da bagno e un materasso per un totale di 17 metri cubi di rifiuti. Le indagini della polizia locale hanno individuato prima l'appartamento nel quale erano stati svolti i lavori e poi la ditta responsabile della ristrutturazione dello sgombero. L'iter penale appena concluso era stato avviato nel 2020. La Giunta regionale ha incaricato l'ente tutela patrimonio ittico di richiedere al Ministero dell'Ambiente la deroga per introdurre esemplari adulti di trota fario in alcune acque regionali ai fini della pesca sportiva. Ci si propone così di ridurre l'impatto della pesca sulle specie ittiche oggetto di conservazione e nel contempo di riprendere lo svolgimento delle gare federali che venivano organizzate in regione e che comportavano un elevato indotto economico. Le aree individuate sono il fiume Piave presso Sappada e i torrenti Cellina e Cimoliana. La relazione che l'ente tutela patrimonio ittico presenterà al Ministero evidenzia da un lato la natura turistica della pesca sportiva in Friuli Venezia Giulia e dall'altro che le immissioni di trota, fario richieste non determinerebbero impatti negativi significativi a carico di specie autoctone e habitat naturali e non interferirebbero con la loro conservazione. Si intitola Clauzetto a braccia aperte, la serata organizzata dal comune di Clauzetto per accogliere i nuovi membri della comunità, cioè le persone che negli ultimi 3 anni hanno scelto di vivere a Clauzetto. Sono ben 41 che si vanno ad aggiungere a una popolazione di 365 abitanti. Al sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti, abbiamo chiesto chi sono i nuovi arrivati stabiliti in un paese che nel frattempo viene privato di servizi essenziali. Non c'è un modello unico, può esserci una prevalenza di persone che hanno concluso la loro vita lavorativa e si trasferiscono a Clauzetto e magari approfittando di quella che è la possibilità di acquistare immobili a prezzi favorevoli, ma ci sono anche famiglie, coppie con bambini, quindi diciamo lo spettro è abbastanza variegato e confortante in questo senso. Rispetto all'inversione di tendenza dello spopolamento, nei numeri è un po' difficile da dire, per Clauzetto si può dire che c'è una relativa tenuta. Questo è confermato dai numeri. Purtroppo il numero di abitanti è di soli 365 in questo momento, però sicuramente c'è una dinamicità dei flussi, perché pensare che negli ultimi 3 anni della pandemia si sono stabilite a Clauzetto 41 persone, credo sia un dato da non sottovalutare. Però c'è il problema, anzi il paradosso, della mancanza di servizi. C'è il paradosso purtroppo della perdita di servizi che lentamente sta depauperando quelle che sono proprio i servizi essenziali di prossimità per un paese come il nostro e per servizi di prossimità, ad esempio i negozi alimentari, il bar, un ristorante, la possibilità di comprare il giornale, la farmacia, quest'ultima non la cito per ultima caso perché è l'ultimo servizio che c'è stato tolto a partire dal 15 ottobre di quest'anno, quando dopo una presenza storica che non è mai venuta meno, ha chiuso la farmacia di Clauzetto e ad oggi non abbiamo prospettive concrete di vederla riaperta. Ed è un dato che coinvolge tutta la montagna pordenonese, perché se pensiamo che da Erto e Casso, quindi al limite della provincia di Belluno, fino a Vito d'Asio sul Tagliamento, metà dell'estensione della regione, su 10 comuni una sola farmacia è rimasta a Vito d'Asio. 7.42, la pagina degli spettacoli con la musica, Gorizia è di scena questa sera l'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, che sarà al Teatro Bratusch per il 44esimo concerto di fine anno organizzato dall'Associazione Lipitzer. Sul podio ci sarà il maestro Romolo Gessi, mentre il cast dei solisti è formato dalla violinista Karen Su, artista cinese che 2 anni fa si è aggiudicata il concorso Lipitzer, e dal soprano Giulia Della Peruta. Nel programma della prima parte, l'ouverture dalle Nozze di Figaro di Mozart e musiche di Mendelssohn e Saint-Saëns. Nella seconda, musiche per soprano e orchestra di vari autori e per sola orchestra di Brahms e Strauss, con la festosa conclusione con la marcia di Radetzky. A Pasian di Prato, l'Auditorium Comunale Veniere, alle 20.45 si esibirà l'orchestra Archi dei Patriarchi, diretta da Giuliano Guruppi. Musiche di Handel, Bach, Vivaldi e Beethoven. Ingresso libero. E questa mattina a Monfalcone, al Museo della Cantieristica, il secondo concerto del Festival Emozione e Lavoro, la grande musica nei luoghi dell'archeologia industriale. Alle 11.30 protagonista la nuova orchestra Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli, e i suoi solisti che si cimenteranno in un programma interamente dedicato alla musica di Vivaldi. Il concerto si terrà nella sala del museo, che contiene i pannelli pittorici di Vito Timmel che decoravano il Teatro di Panzani. Il biglietto d'ingresso potrà essere acquistato presso il Museo della Cantieristica prima del concerto al costo simbolico di 1 euro. Concerti, musica dal vivo in piazza, ma anche varchi controllati e divieti per festeggiare in sicurezza. Così Pordenone si prepara a Capodanno. Capodanno con la musica quest'anno? Con la musica, sì, sì, l'abbiamo già fatto in passato, è stato piacevole, quindi lo rifacciamo. Capodanno con musica per tutti i gusti a Pordenone. Si parte con il concerto di fine anno al Teatro Verdi il 31 dicembre alle 16. Protagonista la Kharkiv Philharmonic Orchestra, prestigiosa formazione ucraina. Auspicio di pace e segno concreto di solidarietà, progettato dal Centro Iniziative Culturali con la Casa dello Studente Zanussi. Musica dal vivo anche in piazza 20 settembre, con concerto di funky, jazz e soul, e a seguire DJ set a ritmo dance anni 80 e 90, tutto a ingresso libero. La piazza sarà aperta al pubblico dalle 20.30 e vi si potrà accedere esclusivamente attraverso 3 varchi. Le tradizionali casette enogastronomiche saranno aperte dalle 11.30 del mattino fino a dopo le mezzanotte. In occasione dei festeggiamenti sono stati istituiti limitazioni alla circolazione nella stessa piazza per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di contrassegni validi per la ZTL. E come da ordinanza del sindaco di Pordenone, entrano in vigore divieti e limitazioni per divertirsi in sicurezza. È vietato consumare o abbandonare bevande contenute in lattine, bottiglie e contenitori di vetro, ma anche vendere per asporto bevande in lattine e bottiglie di vetro. In piazza saranno vietati anche botti e petardi. Inoltre il personale addetto alla sicurezza valuterà la chiusura dei varchi di accesso in caso di eccessivo affollamento. Con che spirito, signora, vivete questo Capodanno? Uno spirito più gioioso, più libero, finalmente dopo la pandemia. Io non vedo l'ora che se ne vada il 2022, speriamo che vadano meglio le cose nel 2023. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport, basket, Udine fuori dalla Coppa Italia di A2 che aveva vinto l'anno scorso. In semifinale passa Cantù, che sul parquet di Desio ha battuto i friulani 81-64. Risultato più secco di quanto dica il risultato finale, con Cantù che è stata riavvicinata dai bianconeri solo nell'ultimo quarto dopo aver persino doppiato gli avversari, 62-31 nella terza frazione. Già il primo quarto aveva fatto segnare la partenza bruciante della squadra di Sacchetti, 22-8 il parziale, con l'Apu depressa da un misero 25% al tiro. Partita segnata dunque da questo avvio, Cantù spinta da una condizione invidiabile e da un super Bucarelli, Udine nel ruolo dello sparring partner. Alla formazione di Boniciolli ora non resta che puntare sul campionato, il 4 gennaio la trasferta contro San Severo. Calcio, l'Udinese è pronta a rituffarsi in campionato, mercoledì sera i bianconeri ricominciano affrontando l'Empoli. Bene, nel frattempo l'ultimo test è l'amichevole sul campo di Cremona. Ieri pomeriggio il successo in rimonta dei friulani con 3-1 con le reti di Arslan, doppietta, e Beto dopo il vantaggio dei lombardi. Tutto nella prima mezz'ora, anche se poi ci sono state numerose altre occasioni, in una gara vivace e presa piuttosto sul serio dalle due squadre. Ottimo test, dice l'allenatore dei friulani Sottile, è stata una partita vera. Ora aggiunge, dobbiamo aggiungere l'adrenalina dei tre punti e dell'agonismo perché è arrivato il momento di fare sul serio. Salto con gli sci a Oberstdorf in Germania, prima tappa della prestigiosa quattro trampolini. Francesco Ceccon ha chiuso al 35esimo posto per il 21enne atleta tarvisiano. Si tratta del miglior risultato in carriera in una gara della tournée. Siamo alla rassegna stampa con il Messaggero Veneto che in entrambe le edizioni apre con la data delle prossime elezioni regionali. Si vota il 2 e il 3 aprile dell'anno prossimo, come già ricordato anche nel nostro giornale radio. Per Udine e Sacile l'eventuale ballottaggio sarebbe il 16. Fotonotizia invece dedicata alla notizia dell'atterraggio di fortuna del Piper guidato dalla giovane pilota di Longarone sul gruppo di Lago Rai. Sull'edizione di Udine si parla degli aumenti decisi dalla giunta regionale del costo del biglietto del bus, che sale di 5 centesimi, mentre cala la popolazione scolastica e diventa così necessario rivedere la rete delle scuole. Spazio alla nuova linea di bus elettrici che partirà a Udine a gennaio e che obbliga gli esercenti, tra le proteste, a ritirare i Deor. Tra le curiosità, la decisione del Tribunale di Udine per lo stop alla frittura di pesce in un locale a Codroipo. L'odore della frittura infastidisce i vicini. Nell'edizione di Pordenone decolla lo sportello di mediazione per gli studenti della scuola secondaria Lozar. In ogni classe toccherà a due alunni formati apposta disinnescare i conflitti e ridurre, se non evitare, il bullismo a scuola. Le code allo sportello GEA per ritirare i bidoncini dopo le prime multe da 300 euro e infine il Capodanno in piazza Pordenone senza botti, petardi e fuochi d'artificio, senza anche i giochi di luce della realtà aumentata, ma ci sarà appunto tanta musica. Siamo al Piccolo che ha in grande evidenza la notizia della morte di Pelé, orei del calcio e morto all'età di 82 anni dopo una lunga malattia. Il titolo principale del quotidiano è però dedicato alla sanità, guardia medica di giorno. Asugi annuncia un nuovo servizio per alleggerire pronto soccorso e medici di famiglia in affanno. Tra gli altri temi, le nuove tariffe per bus e treni con gli aumenti del 4% dal 1 gennaio e nella politica regione al voto il 2 e 3 aprile e il voto al Senato sul bilancio passa la manovra da 35 miliardi. Nella cronaca cittadina due pagine di intervista al sindaco di Piazza. Dal Porto Vecchio al tram, la mia agenda per il 2023, dice il primo cittadino. E aggiunge, sarà l'anno delle scuole, il punto di arrivo sono i 10 milioni della regione per l'acquisto dell'ex caserma di via Rossetti. Sull'edizione di Gorizia ad aprire la pagina cittadina il piano alienazioni del comune. Nell'ex cassa edile troverà spazio il centro Selvaggina, mentre sarà ceduto il laboratorio Marmi. Dalla vendita di beni immobili l'amministrazione prevede di incassare 1 milione di euro. E a Monfalcone la giunta stanzia 40.000 euro per l'attività sportiva. Le domande sono state presentate da 22 associazioni. Il Gazzettino, in entrambe le edizioni di Udine e Pordenone, dedica l'apertura alla fuga di massa dei medici di famiglia. In Friuli lasceranno l'incarico quasi 40 professionisti senza la possibilità di trovare sostituti. Fotonotizia dedicata alle elezioni, mentre nell'edizione di Udine la polemica per le fiamme scoppiate nel carcere di Via Spalato a Udine, che hanno intossicato 5 agenti. Per lo sport, la vittoria dell'Udinese nell'amichevole a Cremona, per Mister Sottile una prova incoraggiante. Nell'edizione di Pordenone si parla dell'appalto del nuovo carcere di San Vito con il subentro della ditta Pizzarotti di Parma che si occuperà della sua costruzione, ma con un prezzo aggiornato a 30 milioni e 700 mila euro. Si parla anche dei nuovi poveri, in quella che una volta era la città più ricca della regione, quest'anno sono stati in 3.000 a chiedere aiuto al comune. Per il calcio, il Pordenone, terzo in classifica, torna sul mercato a caccia di rinforzi. Chiudiamo la rassegna stampa e adesso parliamo un po' di noi, degli ascolti che hanno assegnato alla RAI il primato appunto negli ascolti televisivi in questa annata, nella quale spiccano la musica e lo sport. Il servizio è di Andrea Caruso della redazione di Napoli. I mondiali di calcio e il Festival di Sanremo, i due totem degli italiani, sono anche i programmi più visti del 2022 sul piccolo schermo. L'anno che sta per concludersi consegna alla RAI la leadership degli ascolti televisivi contro Mediaset. Su base giornaliera, in media, le tre reti generaliste RAI fanno registrare il 30,1% di share contro il 25,5% della concorrenza. Ancora più marcato il distacco se si considera la fascia oraria della prima serata, 32% contro il 25%. 5,8 del Biscione. La finale dei mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia ha incollato davanti allo schermo quasi 13 milioni di persone, diventati 16 con uno share del 74,3% al momento dei calci di rigore. La finale del Festival della Canzone Italiana ha appassionato oltre 13 milioni di telespettatori con uno share di quasi il 65%. Rai 1 è il canale più visto sulle 24 ore e nella prima serata. Rai 3 si piazza al terzo posto dopo Canale 5, mentre sul versante dell'informazione il TG1 è il telegiornale più seguito del paese. Molto bene anche le fiction, l'Eurovision Song Contest di Torino e il più recente dei successi della stagione televisiva, Viva Rai 2 con Fiorello. La Rai è la più vista anche su smartphone, PC e tablet. Il numero di ore di visione dei contenuti online tra Rai Play, RaiNews.it e Rai Sport è cresciuto del 40% rispetto al 2021. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 circa il consueto appuntamento con il programma in friulano che oggi si occuperà della Startup Academy di Udine, una scuola per le nuove imprese che si occupano di tecnologia. Seguirà un tranquillo weekend da paura, l'ultimo fine settimana dell'anno sarà a Sauris per le iniziative del periodo natalizio, poi a Gorizia per il concerto sinfonico di fine anno. Tappa finale al Miela per uno spettacolo della comunità greca di Trieste in calendario il 7 gennaio. Tra un giro e l'altro le anticipazioni del nuovo palinsesto radiofonico 2023. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. 7.54, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali. Ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione. Grazie, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.